Messaggi. Mi scrive Tom, malato, a casa. Belle giornate, sempre più ricche. Di 5 supposte e 30 pasticche. Sai di andare fuori, la voglia verrebbe. Invece mi aumenta solo la febbre. Adesso mi tengo sti brutti dolori, tanto verranno giorni migliori. Ma sì, Tom! Giorni migliori verranno. E quelli brutti se ne andranno. Guardo di là, ma vengo di qua. È il momento della pubblicità. Aspettando il programmino mi è venuto un dolorino, un malore musicale. Non c'è cura all'ospedale, solo te mi puoi aiutare. È un dolore che non passa, metti Silence con la cassa. Vai gabbro. Silence con la cassa è in costruzione, tra un paio di settimane ci sarà. Sono arrivati ancora tantissimi altri messaggi sul silenzio. Ciao, sono DJ Luca Dance, vorrei chiedere Silence ad Agostino per far sognare tutta Torino. Mi sono incartato. Mi sono fatto coraggio e ti ho mandato il messaggio per ascoltare le note d'oro di Silence, il capolavoro. Grazie. E il silenzio in tutte le sue forme. Il silenzio che fa soffrire. Il silenzio piacevole. Il silenzio per quelle persone che parlano, parlano, parlano, parlano. I believe. to love you so. Continua il suo cammino con un bellissimo jingle che abbiamo preparato questa settimana. Fai sentire il jingle del programmino. Si può fare meglio, comunque. E il triangolo rettangolo. Allora, stiamo aprendo il club del triangolo rettangolo. Alza il piede e forma un angolo. Nelle prossime settimane vi faremo sapere esattamente cosa bisognerà fare, a cosa bisognerà sottoporsi per essere soci del club del triangolo rettangolo. Intanto leggo qualche altro messaggio perché ne sono arrivati molti. Ciao Gigino, sono Mariangela Palazzino. Sto ascoltando il programmino e mentre penso alla dedicona ho in mente una persona. Complimenti, sei grande, Mary. Ciao, grazie a te, Confuse. Thank you. ideale per lei. Stavo leggendo una cosa bellissima. Allora, l'uomo ideale per lei è altruista, sensibile, affidabile, fedele, molto generoso, poco inibito e pronto nelle risposte. Deve essere colto e maturo, disponibile a rapporti a lungo termine. Ma chi è questo qua? Ma dov'è? La donna ideale per lui, intelligente, di bell'aspetto. Vabbè, vado avanti. Con ampi interessi. Dunque, non si sottomette a ruoli dati. Deve adattarsi a situazioni diverse e non drammatizzare in caso di situazioni rischiose. Essere intraprendente e avere un certo gusto per la baldoria. Si poteva riassumere con una sola parola? Non si può dire. Non si può dire. Bellissimo questo messaggio qua. Ciao Gigi, sono Mario da Catania. D'Agostino, per me sei nel nulla un puntino. E nel nulla è tutto un puntino. Viva la Sicilia, ciao. Appena lo capirò, ti ringrazierò. No, grazie, viva la Sicilia, sempre. segue il vento. Il triangolo rettangolo, alza il piede e fai un angolo. Oh, non mi ricordo mai il numero, eh. E dopo lo cerco e lo do per la messaggeria. C'è una bella, bellissima dedica, è una dedica molto romantica, anche se richiedono un brano molto poco romantico, forse sì, ma è in un'altra chiave, chi lo sa. Dani per Giuseppe. Vorrei essere l'acqua della doccia che fai, le lenzuola del letto dove dormirai. Ti amo. Leggendo la dedica magari ti viene in mente un brano un po' così, con un dolce pianoforte, e invece no. Satisfaction. Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. Satisfaction, satisfaction, satisfaction, satisfaction. Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction, satisfaction, satisfaction, satisfaction, satisfaction, satisfaction. Pazzesco, non lo sapevo. Gran parte delle donne fino all'Ottocento non indossavano le mutande. Cioè non esiste. Non si spiega molto bene qui l'articolo. Non si capisce se le mutande non esistevano ancora oppure non venivano utilizzate. Sembra che venissero usate solo da alcune nobili e da qualche domestica, erano ritenute un po' volgari, insomma, capo da prostitute e attrici. Ragazzi, sono mutande, cioè non è che... È un fatto strano, perché pensare invece che oggi magari è il sogno di molti uomini. Io ci ho pensato qualche volta. E invece all'epoca era, cioè praticamente era volgare portare le mutande. Ma cosa è successo in tutto questo tempo? Cosa mi sono perso? Push. Wir denn das? 334-67-662 per la messaggeria, per la vostra messaggeria, i vostri messaggini, dediche, commenti vari, boh, tutto quello che vi passa per la testa. E intanto continuavo a leggere tutti i vari consigli che ci danno i vari giornali. L'uomo che non sa ballare non sa conversare e non è in grado di offrire un aiuto psicologico a una donna. È un uomo solo a metà. L'altra metà non sa cucinare, né fare pulizie. E ha un gran bisogno di farsi un bicchierino. È l'uomo che non sa ballare. È l'uomo che non fa triangoli, rettangoli, triangoli, rettangoli. Facendo il vostro piedino, triangolino. Thank you. favolosi, spettacolari, particolari, si insinuano nella nostra mente, ci spaccano un dente. Cicli apparentemente uguali, poco normali, sensazionali. che dire. In quei momenti un po' struggenti, tanti cambiamenti, tutto che appare chiaro, e tu ne eri ignaro. In un istante è tutto meno pesante, tutto può cambiare, basta lasciarsi andare. Musica. Ti portano in paesaggi impossibili, inesistenti, incostruibili e forse invivibili. A volte penso quanto è bello passare un pomeriggio, una serata, seduto sul divano a fare assolutamente niente, zero, mettersi tutto lì, tutte le cosine da mangiare, tutto quello che vorresti leggere, tutto il telecomando, il telefono, tutto lì. Voglio fare un regalino. Aiutami, Gigi D'Agostino. Dai, metti una tua canzoncina. A Renzo dalla sua sorellina. Io metto la tazzina. Tu dacci dentro con la caffeina. Sonia. Quanti messaggi. Grazie, ragazzi. Caffè, caffè. Solo per te. Green, Radio Italia Network, il programmino di Gigi D'Agostino. Che percorso, che cammino. Quando ero piccolo mi portava per mano Rino Gaetano, è un grande. Ancora dediche. Bellissima questa qua, eh. Stasera vado a prendere la mia fidanzatina. Spero che indossi una bella gonnellina. La porterò prima in un bel locale e poi le mostrerò l'abito nuziale. Thank you.

your black hole, your deep soul, your deep soul. Thank you. una profezia. Il buio da cui ero circondato, col tuo programmino in calore si è trasformato. Un saluto da Luca da Roma, la tua capitale ti aspetta. Grazie Luca. E sarò a Latina, se non erro a metà ottobre, credo il 18 di ottobre a Latina, al 24.000 baci. Ci vediamo lì, è sempre una storia interessante. È un posto magico. C'è gente magica. Come questo disco. Questo intreccio armonico. Mi ricorda cose che non ricordo. Fa vedere cose che non ho mai visto. Mi fa sentire come non mi sono mai sentito prima. Mi fa ballare come non ho mai ballato. Sulla testa. Verso l'alto, quasi come per toccare le nuvole, per cambiare la forma alle nuvole, per dargli la forma che hai sempre sognato tu, che hai sempre voluto tu. Puoi cambiare la forma alle nuvole. Puoi cambiare la forma alle forme. Puoi cambiare la luce dei tuoi giorni. Tutte queste braccia al cielo che cambiano la forma alle nuvole, che toccano le nuvole, che spostano le nuvole, le avvicinano, le allontanano, gli danno una nuova vita. Puoi ballare, ridere, urlare. baciare, abbracciare, sentire, capire, andare, tornare e poi ascoltare musica. Troppe parole fanno male e la rabbia poi ti sale. Allora, musica che parla. E se ci riesci, prova a cantarla. A chi parla senza ascoltare e non sa di esagerare. Bellissimo. È anonimo e tanti non mi hanno scritto il nome da dove mi scrivono. Ma un po' troppi messaggi anonimi. E io voglio sapere con chi parlo. We'll be right back. for too long now. Feels like I'm not yours. Signor Gigi D'Agostino, volevo chiedere un piacerino. Fai suonare il brano dei The Vision, che ci sta dentro un casino, aspettando il nuovo, quello di Gigi D'Agostino. Stefano Seriate, Bergamo. Il brano era quello lì che abbiamo ascoltato. Lento, violento. Lento, violento. Thank you. Il cammino del programmino. Green, Raggi Italia Network. Cammino, cammino, il programmino. Splendida sequenza armonica, tanta musica elettronica, sei grande che ti occupi due brande, all'infinito ti ascolterei perché sei sempre... DJ. Firmato uno Spinottaro, Alemiasi, ovviamente Spinottaro è un soprannome scherzoso, l'unica sostanza pesante... e musicale. Musica, una sostanza pesante, senza effetti collaterali. Splendida sequenza armonica, tanta musica elettronica. We'll be right back. certe cose bisogna lasciare che avvengano, soprattutto dentro di noi. ti mostrerò le meraviglie del mondo e quando arriverai, e quando arriverai, e quando arriverai, tu guiderai, tu lo insegnerai ad un altro come te. Thank you. musica. Qualche flessione se è il caso. Per quelli più legati. Posizione sportiva. Busto in avanti. Mani sui fianchi. E saltare, battere le mani, domani, su battere le mani, poi saltare, battere le mani, domani, su battere le mani, poi urlare. Semplicissimo allenamento preserale. Giusto per non arrivare poi stasera in discoteca non preparati. Di quest'oggi continuerà ancora domani pomeriggio in replica e la prossima settimana sempre qui su RIN. Io sono Gigi D'Agostino, grazie per aver viaggiato ancora con me sulla testa musica. We'll be right back. Grazie per aver immaginato, corso, sperato, pensato, abbracciato, insieme alla musica, insieme a me, insieme a Rin. Grazie, perché ci avete dato il tempo per battere questo tempo, per colorare questo tempo. Il programmino continua il suo cammino.